Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, sono le 21:10 in questo istante, voi siete all'ascolto di Blu Radio Veneto, in particolar modo nell'appuntamento serale di Blu Radio Sera. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato. E anche Maurizio questa sera, eccolo qua, ecco qua, Maurizio Cazzovara, sei sempre tu, non sei cambi sempre. Mai. Ti dedicheremo una canzone, esatto. Affinché tu te ne vada. Vabbè, no, stavo scherzando, assolutamente sei utilissimo all'interno delle varie programmazioni musicali di tutte le sere qui su Blu Radio Veneto. E in questa serata del 12 ottobre abbiamo anche un ospite che viene a presentarci il suo nuovo lavoro, e quindi diamo il benvenuto anche a Marco Iacampo. Buonasera. Eccolo qua. Buonasera. Allora, Marco, cosa ci racconti? Fatto buon viaggio innanzitutto. Sei arrivato... Sì, sono arrivato da relativamente vicino, perché ecco, ero quindi a casa dei miei genitori. Perfetto, allora benissimo, ben arrivato, sì. Direttamente da Mestre. Grazie. Se non trovi traffico, vabbè, hanno aperto anche la nuova bretella, per cui appunto tutto è più semplice per arrivare anche verso Padova, dove sono i nostri studi. Allora, Marco Iacampo, si diceva, per la presentazione di questo tuo nuovo lavoro, che appunto si intitola Marco Iacampo. Bravo. Ecco. E allora, un disco che viene da dove? Cominciamo a delineare un po' la fisionomia di questo disco. Si può iniziare, non saprei da dove iniziare. È un disco che viene da me. Mm-hmm. È un disco che ho cominciato a scrivere ormai 4-5 anni fa. E quindi è stato un lungo lavoro, quindi un disco che viene da lontano. Esattamente, almeno nel tempo è un disco che viene quindi da molto vicino e molto da lontano. Direi che basta. Hai detto comporre le nuove canzoni all'inizio è stato più difficile. Certo. Come mai, Marco? Ma intanto venivo dall'inglese. Erano ormai se non sbaglio 3-4 anni anche lì che scrivo in inglese, con due dischi di questo mio pseudonimo che era Good Morning Boy, e quindi ritufarmi perché già con gli L, il mio primo gruppo, scrivevo in italiano. Hai detto con gli L correva l'altro secolo. Sì, praticamente. E praticamente sì. E quindi niente. Sono arrivato a scrivere queste canzoni in italiano dopo quasi per la prima volta, perché l'italiano che ho ripreso in mano era totalmente diverso, e quindi niente, è stato un non dico un parto, non mi permetterei mai. Però anche perché mi sa che non proprio tu, ma c'è qualcuno di caro che è proprio vicino a quella parola che hai appena detto. Ecco. Quello non mi permetterei mai. E quindi è un parto mentale, forse una sorta di parto maschile, no? Che fa molto meno male, però non vogliamo fare paura alle presenti. Ecco. Anzi, le mandiamo un grande saluto e un bocca al lupo nel prossimissimo. Fa anche futuro. Molto meno bene. Vabbè, tu hai detto prima consumavo i Sparkle Horse e i Beatles. Li consumi ancora i Sparkle Horse, secondo me? No. Hai completamente No. Poi l'ho visto dal vivo, esattamente Mark Linkous dal vivo, e niente, mi ha deluso molto perché ho capito che era tutto un lavoro di produzione e che poi mancava la ciccia. Almeno quello che ho visto io al New Age di Roncade quella sera è stato uno spettacolo dove ho detto qua manca la ciccia. È un che lavoro... poteva essere anche un momento no dell'artista. Poteva essere un momento no dell'artista o mio, però fatto sta che sì. Da quel momento io non l'ho più ascoltato, quasi mi sentivo tradito, no? Perché avevo legato delle emozioni, delle cose a questo grande artista. E quindi niente, non l'ho più ascoltato. E poi ti sei buttato, ora ascolta Edoardo Bennato e Paolo Conte, hai detto. Paolo Conte l'ho sempre ascoltato. Già con gli L, se c'era qualche riferimento italiano, era Paolo Conte. Certo. Bennato è un artista invece che ascolto quando ero adolescente, diciamo. se non bambino, alle medie si è ancora bambini, penso, quasi si sì, sì, sicuramente c'è sì. La via di mezzo, c'è la via di mezzo infatti. E quindi niente, ben nato. Ecco, c'era già. Bene. E se volete anche vederci oltre che ascoltarci potete farlo. Ecco, Marco Iacampo vi sta salutando. L'indirizzo per vederci in streaming video è diretta@rockwave.altervista.org. Cosa dici, Flavio? Apriamo la finestra come facciamo di solito. Sì, apriamo la finestra ascoltando il primo pezzo di Marco Iacampo, tanto per capire di che musica stiamo parlando. Certo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua, ci siamo ascoltati anche il primo pezzo per presentare quella che è la musica di Marco Iacampo. Marco, che abbiamo anche qui ospite nei nostri studi in diretta su Blu Radio Veneto all'interno di Blu Radio Sera. Rinnoviamo il buona serata a Marco. Evviva! Evviva, evviva tutti, evviva sempre. Benissimo, allora, Che Bella Carovana. Tra le altre cose è da citare che all'interno di Che Bella Carovana ci sono, oltre a te, Iacampo, c'è anche Ia Felice. Vi siete messi d'accordo? Parlando di cognomi così simili. No, non ci siamo messi d'accordo, però magari ci siamo fidati di questo Ia nel momento in cui ci siamo conosciuti. È mio produttore e quindi, insomma, è una persona importante. Che ha un curriculum non da poco. Come? Che ha un curriculum non da poco. Un curriculum non da poco, è stato forse la prima persona a quale mi sono affidato musicalmente e ho fatto bene. Decisamente. E questo primo pezzo, Che Bella Carovana, ha una storia, la vuoi raccontare? Sì, non ha una storia. Tu di cosa stai parlando? Oltre alla storia del testo, anche una storia, è stato detto una compilation. Ah, ok, ok. Questa sì, è la strada che poi ha preso questo brano, che è l'apripista del disco, ma è stato anche apripista a livello di tempi, no, di questa nuova uscita, perché è stato il primo pezzo che è uscito da questo disco anche prima dell'uscita del disco stesso. Del disco stesso. E ho entrato nella compilation. Quella che si chiama Il Paese Reale, Post Sanremo di Manuel Agnelli, Post Sanremo di After Hours, esatto. Che è una compilation di nuovi artisti che loro, grazie a questo pezzo, hanno un po' veicolato. E niente, mi è stato, sono stato chiamato una sera e mi aveva chiesto un pezzo, io e Paolo ne abbiamo parlato, Paolo Ia Felice. Il pezzo praticamente era lui, decideva da solo di esserlo. E ci stava, parlava di una combriccola e che io avevo scritto in maniera molto personale, che però all'interno di quel disco probabilmente poteva prendere un altro significato. Arrangiamenti piuttosto scarni, essenziali. Sì, perché era partito, è un pezzo che abbiamo ottenuto dai provini. Ah, ho capito. È stato, diciamo, lavorato sui provini che stavamo facendo in studio. E quindi ha tenuto quella cosa lì, questa batteria esatto. pulsante dall'inizio alla fine. Proprio un brano del carattere essenziale, sì, cioè esatto. Due cose, solo quelle due che servono, sì, sì. Senza nessun è altro. Un po', è un po' la mano di Paolo Ia Felice, quella di scarnificare e di tenere le cose che servono. Una canzone che si può cantare anche in spiaggia, voglio dire questa. Ma guarda, anche in montagna. Anche in montagna, sì, no, ma tanto. Come nasce un tuo pezzo, Marco? In montagna. È in montagna? Può nascere anche in montagna, certo. Ma nasce. Allora, innanzitutto, ormai mi sono abituato a rispondere a questa domanda. Perché dico che, innanzitutto, nasce da quello che voglio dire. Cioè, se non c'è niente che voglio dire, è difficile che parta una, o almeno ultimamente, che parta una melodia oppure un gna gna gna. Sono cose che canto, però una canzone nasce da qualcosa che voglio dire, qualcosa che va detto. E poi nasce subito, abbastanza assieme, il modo in cui voglio dirla, e quindi legato a un modo di stare rispetto a quello che voglio dire, quindi a una frase. Un modo di proprio letterario di dire quella cosa lì, e il modo letterario che dice quella cosa lì di solito sto cercando che contenga sempre di più la musica che quella cosa che voglio dire in quel modo vuole, quindi quella la musica del, deve essere una la fotografia musica, esatto, la musica di quello che voglio dire, certo, una fotografia del testo, esatto. Praticamente. Ok, benissimo. Quindi un abbraccio filosofico molto importante quello che ho appena sentito, proprio parliamo di concetti importanti, certo. All'interno di quella che poi viene tradotto in una semplicità di audizione della canzone stessa. Prima abbiamo ascoltato quindi Che Bella Carovana, sì. La traccia che dà inizio proprio a questo Nuovo lavoro di Marco Iacampo. Adesso, visto che sei munito di chitarra e anche gli amici che sono collegati in streaming video lo stanno vedendo, quindi se vuoi salutare ancora una volta con la manina, guarda, con due manine come le pecore mi insegnano benissimo. E allora, visto che hai questa bella chitarra con te, direi che potremmo iniziare ad ascoltare qualcosa anche dal vivo. Sì, sì, farei la canzone che si chiama Uno, è una canzone che parla essenzialmente di lezioni d'amore, ecco. Bene, allora Iacampo, Marco Iacampo, dagli studi di Blu Radio Veneto di Padova, ci presenta questa sua canzone suonata per voce e chitarra, si intitola Uno. Non ho più lacrime, non piango più, questo è il posto dove devo stare. Mi credi o c'è qualcosa da capire? E non ti è facile, l'hai detto tu, ma sento la tua voglia di bruciare sulle tue belle labbra da baciare. Considerando che un po' di panico ci sta, se fa paura qui si chiama verità. Qui dove uno è nessuno senza amore per qualcuno. Qui uno è nessuno senza amore per qualcuno. Sono stato in bilico, che vita hai fatto tu? È tutto nuovo, è tutto da esplorare. Navigherei i tuoi fianchi come il mare. Ma oggi è domenica, non mi trascuro più, c'è un modo più regale di aspettare. E c'è il mio vuoto congeniale da riempire. Considerando che un po' di panico ci sta, se fa paura qui si chiama verità. Qui dove uno è nessuno senza amore per qualcuno. Qui uno è nessuno senza amore per qualcuno. La presenza scenica è un certo sentire, come una danza da ricordare. Dimenticata per dimenticare. Che un po' di panico ci sta, se fa paura qui si chiama verità. Qui dove uno è nessuno senza amore per qualcuno. Qui uno è nessuno senza amore per qualcuno. Qui uno è nessuno senza amore per qualcuno. Qui uno è nessuno senza amore per qualcuno. Ed eccolo qua, Marco Iacampo con il suo secondo pezzo, questa volta suonato dal vivo, si intitola Uno e non ce n'è per nessuno, ha detto. Proprio quasi una minaccia. Nel pezzo, dal disco, cioè, ci sono degli echi leggermente country. Qui gli echi country li hai un po' lasciati da parte, li hai un po' nascosti, volutamente forse, perché dal vivo è un'altra dimensione. Cosa dici, Marco? Gli echi country sono stati nascosti anche grazie a Paolo Iafelice. Ah, ho capito. Perché io vengo dalla musica americana come ascolto. Quindi assolutamente come... musica americana. Sì, soprattutto. Penso come molti cantautori italiani, certo, vengano anche dei più, i più anziani, certo, vengano dalla musica americana. E... in primis De Gregori, per esempio, sì, per citarne uno. Sì, per citarne uno. Quindi un po' la scuola è quella, perché è stata una delle scuole più vicine temporalmente a riavvicinare quella che è il gusto popolare alla musica folk tradizionale. Quindi... anche se noi in Italia abbiamo, anche noi in realtà, una musica che alla fine è popolare e nello stesso tempo legata alla tradizione. Il nostro problema in Italia è che non è unificata. Quindi abbiamo le musiche della musica napoletana, la musica dei Monti, la musica romagnola. E quindi il nostro problema è un po' quello dell'unificazione. Abbiamo ancora il problema dell'unificazione. Esatto. Nonostante tutto, quindi Garibaldi ha fatto gran poco ancora in campo musicale. Vabbè, anche se esistono dei gruppi che si chiamano Garibaldi, com'è? Sì, Garibaldi, facciamo progressive, ti ricordi? Sì, Pensione Garibaldi. Pensione Garibaldi sono qui di Monsedice, cioè qui vicino, quindi sono proprio nostrani, però Garibaldi facevano progressive, facevano musica interessante, esplorativa, un po' jazzata all'epoca. Un bel gruppo in ogni caso. Va bene, dopo questa grande variopinta cultura musicale del nostro sì, Maurizio Casavarra, che gli chiedi qualsiasi cosa dal 1940 fino ad oggi, aggiornato alle 21:30, perché quindi sono passati solo 2 minuti di dati persi in questo caso. Vabbè, continuiamo a parlare con Marco Iacampo, che ci sta presentando questo album che è già da qualche mese in circolazione. Marco, sì, in realtà è da qualche mese, anche se con la promozione radio siamo partiti solo adesso ad ottobre, quindi diciamo che una vera uscita potrebbe essere invece quella autunnale. I primi mesi sono stati un po' per tastare il terreno, anche visto il fatto che comunque 4 o 5 anni che sono fermo. Esattamente. Quindi c'è una specie di nascita e un battesimo poi successivo. Bravo, mettiamola così. Teniamola così. Ci stiamo all'etichetta, è l'adesiva discografica. Sì. Un'etichetta nuova, praticamente. Un'etichetta, sì, che nasce anche dal nome dello studio. Certo. Dove abbiamo registrato, che è lo studio di Paolo Iafelice. È tutto nuovo, io mi sento nuovo, l'etichetta è nuova, il produttore, io e quello che diciamo è molto antico. L'energia nuova, però, è sì, con dei presupposti importanti. Sì, è tutto si sta parlando di nascita in questo periodo. Perfetto, tutto attorno alla mia vita. Sì, anche perché appunto c'è ospite la tua compagna nella vita, vogliamo salutarla anche. Sì, visto? Vabbè, ma lei è là che sta bene. È qua in studio, sta tranquilla, però voglio dire, sicuramente chi sta aspettando sta sussultando, ascoltando il papà che suona, ecco, quindi è una cosa bella, mi emoziona sempre parlare di queste cose. Grazie a Dio. Maurizio. Sì, ho letto un'intervista, ti fanno questa domanda, è un'esposizione dei tuoi disegni, dipinti e disegni, le anteprime del tuo album, è venuta insieme a un'esposizione, cioè tu hai presentato il disco presentando anche i tuoi disegni, i tuoi dipinti, tu anche sei pittore praticamente. Sì, nasco come pittore, nel senso che la mia passione da piccolo, ancora prima dell'infatuazione per la musica, o per la passione per la musica, è stata quella del disegno sin da piccolo. Ho capito. Era il mio gioco preferito, quello che poi ho portato avanti, il mio sfogo è stato sempre il disegno. E posso ricordarmi Good Morning Boy? Forse c'era un disegno su quell'album, sì, vedi che sì, mi ricordo. C'erano tutti, entrambi i dischi erano dipinti miei, sì. Chiaramente, sì. Quindi già in quel momento avevi dato già il tocco. Sì, sì, sì, ma è una cosa che proprio ho sempre fatto, sempre fatto. E questa connessione tra musica e disegno e pittura, insomma? È una connessione, nel senso che nascono negli stessi periodi, viene quando sono ispirato per una cosa di solito, e sono ispirato anche per l'altra. Certo, ho capito. Quindi vanno abbastanza a braccetto, ecco. Quindi sono fondamentali per portare avanti un discorso. Certo, certo, perché molte volte l'una cosa riesce a liberare l'altra. Molte volte un disegno, un quadro mi liberano un'idea e quindi una canzone. E molte volte invece è scrivere una canzone che mi fa pensare, forse per, non lo so, perché siamo immersi in anche un immaginario che è visivo. Una canzone mi fa subito pensare in che immaginario visivo voglio racchiuderla, e molte volte parte anche il pennello. Certo. Bene, allora continuiamo con l'ascolto di quello che è il nuovo lavoro di Marco Iacampo. Direi di proseguire la nostra strada su disco, quindi inserendo anche quella che è la traccia numero 5 del tuo lavoro, Marco, che si intitola Tutto a Posto, e quindi lo ascoltiamo direttamente da... Che tra l'altro è il nuovo singolo. È perfetto. Benissimo. Ascoltiamo allora, molto volentieri. Ascoltiamo assolutamente molto volentieri questo nuovo singolo di Marco Iacampo qui dai microfoni di Blu Radio Veneto, mentre lui sta amabilmente salutando il suo pubblico che lo sta anche guardando. Diverte pure a noi. Oggi è fresco il vento, i campi, inganno il tempo quando guardo avanti, cosa non si sa, e faccio i conti delle cose belle che ho trovato tra le rose, oggi resto qua, è tutto a posto. Oggi sento che ho svegliato un morto, perché così sentivo il cuore spento e tutto il male andato in un momento. Le vostre guerre sono lontane, ma oggi sento, ho le orecchie sane, è la verità. Non sentivano le stelle, quelle che ho inseguito tra le case di questa città, è tutto a posto. Oggi sento che ho svegliato un morto, perché così sentivo il cuore spento e tutto il male andato in un momento. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Perfetto in questo amore imperfetto, Dio. Oggi ci credo, forse oggi ci vedo anch'io, che è tutto a posto. Oggi sento che ho svegliato un morto, perché così sentivo il cuore spento e tutto il male andato. Morto. Sento che Blu, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E fino a qua mi sembra tutto a posto. Sono le 21.40, siete con Blu Radio Veneto, io sono Flavio Bilato, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara. Anche in questa serata non siamo soli, abbiamo un ospite, si chiama Marco Iacampo, è venuto a presentarci, a rendere a battesimo questo nuovo suo lavoro che si intitola appunto come il suo nome, Marco Iacampo, e questa che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, si intitola Tutto a posto. Sì, volevo prima salutare le nostre affezionate ascoltatrici, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, e il nostro curatore artistico, ecco, che è Alberto Prisco. Ok, possiamo andare, adesso possiamo riprendere il discorso. Marco, com'è nato musicalmente questo pezzo? Da un giro molto semplice, che è Mi maggiore. Mi maggiore. Poi Do diesis. Perfetto. Minore. La maggiore e Si, che è veramente... proprio ci hanno scritto mille canzoni su questo giro. Mm-hmm. E avevo voglia in quel periodo di scrivere anch'io su dei giri classici, e poi mi sono accorto che a scrivere le canzoni sui giri classici puoi o scrivere una ciofeca oppure veramente una delle strade per scrivere una bella canzone. Certo. Io di questa canzone sono molto soddisfatto perché è molto semplice e dice esattamente come stavo, e soprattutto uso quel Do diesis minore. E c'è una cosa importante: il gusto della melodia. Tu cerchi sempre il gusto della melodia. La melodia deve venire fuori, deve sentirsi. Sì, è quella forse quella cosa che a cui più attribuisco il fatto di suscitare un'emozione. Perché poi, per quanto io sto scrivendo in italiano, molte parole che alla fine dico in italiano vengono finalmente recepite e magari riescono a dire qualcosa, è ancora secondo me la melodia con cui la dici che ti fa, che ti suscita un'emozione. Quindi sì, mi piace la melodia, sempre è bello. Sì, ma anche citando i vecchi dischi tuoi, con gli Elle, Good Morning Boy, c'erano sempre dei pezzi melodici, sì, anche sì, se erano i pezzi un po' più mossi, cioè era una band chiaramente, certo, però i pezzi melodici c'erano sempre in questi vecchi dischi, nel tuo passato. Quindi il passato non è sepolto, ritorna sempre, e la melodia è sempre là davanti. Certo, è là davanti, hai ragione, perché sennò non sono contento di quando la canto. Deve esserci una bella melodia da cantare, e se no non riuscirei a cantare tipo i CSI, si chiamava, sì, CCP, e facevamo quella cosa là, e non ce la farei, perché dopo un po' magari mi annoierei, e le parole non è che, sì, sono importanti, però non è che mi fanno godere fino alla fine. Serve una bella melodia che mi giri in testa, da mugugnare anche senza parole, cioè, come dire, no? È basilare. Parlando del tuo disco e del tuo impegno anche dal vivo per poter promuovere il disco, che emozione ti fa cantare in mezzo alla gente? Cantare in mezzo alla gente è, non dico che è la fine del percorso, perché può essere un altro inizio, però è la fine del discorso, nel senso che nel momento in cui scrivo la canzone sono da solo. Poi registro un disco che è sì un veicolo, però l'impatto con quello che ho fatto nello studio, in cameretta o in bagno, in cucina della casa, alla fine ce l'ho solo quando canto la mia canzone davanti alla gente. È un fatto di esternare una certa intimità, perché le mie canzoni alla fine, per quanto possono essere estroverse, partono da un'intimità, quindi è un momento assieme delicato e molto forte, quindi è bello, un bel momento. A proposito, chi ti ha seguito nel disco, i musicisti che hanno suonato assieme a te? I musicisti del mio disco sono stati un po' scelti da me, un po' scelti dal mio produttore, sono il chitarrista Simone Massaron, stavo già suonando con lui nelle prime tranche di promozione del Paese Reale. E poi invece la base ritmica è stata scelta da Paolo Iefelice, quindi Andrea Vitti e Johannes Pichler sono stati scelti dal produttore con cui ho già lavorato. Il pianista l'ho scelto io, molto bravo, Riccardo Di Paola. E poi c'è Gabrielli, sì, Gabrielli, sì. Enrico, che insomma lo conosco da un po', e quando serve un fiato di solito arriva lui, chiami problema. Lui o... Non c'è problema. Quando serve un fiato, chiami lui. L'intenzione è di portare la band dal vivo negli spettacoli, hai intenzione di fare questo discorso o è un'intenzione di fare solo un discorso da solista? Ma per adesso, per questa fase promozionale, sto girando da solo con Simone Chivilò, non so se lo sì, conosci. Sì, certamente. Mamma mia, grande, anche grandissimo, molti grandissimo. Ascoltatori lo conoscono e quindi stiamo girando in duo. E quindi pian piano, insomma, ho già fatto le esperienze con la band, come la, diciamo, la presentazione ufficiale che ho fatto ad aprile. Però insomma è una cosa che verrà fatta con il tempo, quando ci saranno anche palchi adatti. Molte volte vai a promuovere i dischi in posti piccoli dove veramente non serve alzare il volume, anzi serve cercare invece di stabilire un contatto con, è l'impatto con migliore della voce col pubblico, forse. Ma esatto, e in certe situazioni, adesso parlerò un po' tecnicamente, però la voce non esce e quindi io mettendo molto nella voce e sempre di più, molte volte non ci sono le situazioni tecniche perché una band riesca a, scusate, una voce riesca a sopportare una band che suona dietro. Sono cose un po' delicate che in questo caso insomma andremo pian piano a sistemare. Certo. Devi essere sicuro praticamente prima di fare un passo di questo genere, quindi. Certo, sì, sì. In questo momento mi sembra superfluo anche suonare con una band, è a disposizione, però insomma ecco, adesso, per adesso siamo da solo in duo. Okay. Benissimo, perfetto. Ricollegandomi a Simone Chivilò, diciamo che lui conosce molto bene la nostra radio, anzi potrebbe venire qua anche ad occhi chiusi. In qualsiasi momento. In qualsiasi momento. Benissimo, quindi ne approfittiamo anche per salutarlo. Ciao Simone. Okay. Là, ciao. Ciao Simone. Benissimo. Bene, allora noi proseguiamo con l'ascolto delle canzoni di Marco e di turno un qualcosa live, Marco. Sì, sto per suonare Navigo nell'oro. Magari, no, no io. Benissimo, dagli studi di Blu Radio Veneto, Marco Iacampo, Navigo nell'oro. Ho lasciato la mia terra per il mare, ho scordato ciò che mi poteva dare, orizzonte in fondo a questo nero, orizzonte che valeva il mondo intero, nessuno mi poteva mai fermare, la mia barca continuava a navigare, e ho visto Ulisse che passava nella scena. Ho visto Ulisse ma lui mi ha guardato appena. E sì, si è levato un coro. Ehi tu, navighi nell'oro. E allora guardo fuori dalla barca, capisco che era tutto fuorché acqua, te lo giuro, la mia testa era un tamburo, ho capito che era tutto oro puro, l'avevo detto a tutti quelli lì, a stare a terra a vivere così, avevo fatto una fortuna a non restare, avevo tanto oro e tanto tanto amore. Sì, si è levato un coro. Ehi tu, navighi nell'oro. E luccicava, luccicava amore. dolci come lucciole, signore. Io sentivo la mia testa martellante, l'amore che è così è droga pesante. E luccicava, luccicava amore, lucciole che luccica nel mare. Luccicava tanto che soffrire sembrava assai più dolce in questo mare. Eh sì, si è levato un coro. Ehi tu, navighi nell'oro. Preso per amico, è volato e dal mio mare mi ha rapito. L'ho guardata e quando mi ha baciato, il mio sangue ed il mio cuore ho ritrovato. Sono arrivato stanco e intimorito, un santo che da un diavolo è guarito e da un detto nato ai tempi della guerra che dice guarda il mare, tieni il culo a terra. Eh già, ora canto in coro. Ehi tu, navighi nell'oro. Eh sì, ora canto in coro. Ed ecco qua Marco Iacampo, Navighi nell'oro. Siamo sempre in diretta qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Ancora buona serata, io sono Flavio Bilato, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara, grande critico musicale che sta pian pianino scavando in quelle che sono le canzoni di Marco Iacampo per capire di più della persona e dell'artista. Allora, Navigo nell'oro, una canzone davvero particolare, voglio dire, soprattutto nel titolo, ma da dove arriva? È da un'immagine che è suscitata da un certo punto. Mi sono trovato nella casa in cui vivevo a Milano, la casa dove, insomma, dove ho abitato solo. In terrazzo ho trovato un vecchio remo con cui ho visto un'immagine, no? Ho detto, cavoli, se questo remo avesse navigato nel petrolio avrebbe la punta nera, se avesse navigato sarebbe sporco. Esattamente. Invece se avesse navigato nell'oro avrebbe la pala, no? No, forse non la troveresti. La pala, esatto, no. Non l'avrei trovato lì. E avrebbe la pala d'oro, no? Certo. E allora ho fatto questa opera d'arte, no? Che ho pitturato d'oro, di vernice dorata. L'inizio di quella palla di questo remo. E da lì ho pensato a questa storia, no? di questo navigatore, questo che disse praticamente. Sì, poteva essere anche che, insomma, doveva in qualche modo No, aveva visto, ecco, era successo che questo navigatore era stato attratto da questo mare d'oro, certo, fino a rimanerne invischiato, fino a rimanerne quasi a rimanerci, come si dice, no? In questo mare, e che poi invece alla fine è stato salvato da qualcuno che gli ha fatto capire chi era e di cosa aveva bisogno. Musicalmente è un pezzo molto importante, innanzitutto è quasi messo al centro del discorso, cioè è il pezzo numero 8, i pezzi sono 13, siamo là, e qui alla fine della tua esecuzione l'hai un po' buttato, l'hai messo un po' yangamente, cioè alla Neil Young, pardon, alla fine. Io l'ho sentito così, è bello secondo me, molto bello. Sì, è un po' il modo che ho imparato a suonare, in cui ho imparato a suonare la chitarra. Alla fine si presta a certi appoggi. Esattamente, no? Con qualche odore, se mi è consentito il termine, Flavio, sì. Blues. L'odore blues dipende da quando mi sono fatto la doccia. Ah, ho capito. L'ultima volta. Ho capito. Fantastico, questa l'abbiamo registrata. Questa l'abbiamo registrata. Parola di Marco Iacanco. Perfetto, perfetto. Vabbè, navigo nell'oro per entrare in possesso del CD. Vediamo un po' anche quella che è la nota distributiva. Bravo. Che non è di poca importanza. No, infatti, allora il disco, sì, è distribuito Edel, quindi in teoria dovrebbe trovarsi in tutti i circuiti Feltrinelli, Fnac. È facilmente ordinabile. Non so se in tempi brevi, ma comunque il disco arriva. Perfetto, quello è importante. Quindi questo, oppure si può ordinare via web, nel sito di Adesiva Discografica, quindi adesivadiscografica.com. Ecco, quello è un altro modo per ordinarlo. E per conoscere qualcosa di più di Marco Iacanco, che sito possiamo consigliare? A poco dovrebbe apparire www.marcoiacanco.it, sì, dominio già, che c'è già il sito in costruzione. C'è l'omino con la paletta. Sì, esatto. Sì. Se non... Manetwork, per cui... Esatto. Sì, okay. E quindi www.marcoiacanco.it, poi da un po' ho aperto un MySpace, ma non so se lo curerò molto, quindi Marco Iacanco presso MySpace. E basta, insomma, poi il resto, la rete è abbastanza grondante di informazioni, abbastanza pure densa. Troppe anche, pure troppe. A volte. Sì, sì, perché poi alla fine certe cose si datano e non si ha un controllo, però insomma questa è un'altra questione. E poi nelle tue esibizioni, quando ti esibirai da solo, hai detto con qualcuno ti dà una mano, con il nostro grande amico Civilò. Esatto, poi ci saranno anche i dischi a disposizione tuoi, certo, certo, e concerti, esattamente, concerti che partiremo proprio avanti dopo le produzioni radio. Certamente. Bene, allora noi continuiamo con l'ascolto di un altro pezzo, questa volta cosa tocca? Il disco? Il disco. Benissimo. Sì, esatto. Allora abbiamo la traccia numero 11 che si intitola Il mio lavoro. Sì. È proprio il tuo lavoro di musicista, quello? Stiamo parlando di quello, sì. Benissimo, allora Marco Iacanco dal suo lavoro che si intitola per l'appunto Marco Iacanco, ascoltiamo Il mio lavoro. Crollano, è facile lasciare e rinunciare a tutto. Parlo di me, del vuoto che ti assale. È un tempo in cui le terre tremano, da lì le puoi sentire. Se hai paura, vieni a stare da me, dividere un mensile. Ho solo il mio lavoro, che fino ad oggi non mi ha dato chissà che, ma ho solo questo, mentre muoio, mentre aspetto il tempo che è perfetto. Thank you. cerchi l'oro, non devi rinunciare. Ma l'oro che è mio, io lo regalo a te, ricchezza senza fine. Fallo con amore, mettici tutto il meglio di te e aspetta la stagione. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto. Abbiamo ascoltato Il mio lavoro, un pezzo estratto dal CD Marco Iacampo. A presentarselo è proprio lui in persona, è arrivato qui stasera e ha chiesto alloggio e noi l'abbiamo gentilmente ospitato per questa ora e mezza in cui stiamo assieme a lui. Ancora buonasera Marco. Allora, questo il mio lavoro, parlavi della tua musica, parlavi di te, delle tue esperienze. Parlavo di quello che ognuno sente come il proprio lavoro, e il proprio lavoro penso che nasciamo con delle doti, oltre a quello che comunque sappiamo fare, no? Che siamo abituati a, cioè, per vivere in qualche modo uno deve fare qualcosa. Certamente. No? Però forse non dovrebbe essere così, dovrebbe essere che ognuno fa quello che, per cui è portato, no? Per cui uno che ha grandi mani, ok, è giusto che lavori con la materia, è giusto che lavori con la terra, soprattutto se lo fa stare contento, lo fa star bene e soddisfa lui e chi gli attorno. E se fa bene quel lavoro. E uno che ha le mani fine, magari deve lavorare di fino. Allora, secondo me il mio lavoro è per nobilitare. È vero che il lavoro nobilita l'uomo, ma è vero che il lavoro vero nobilita l'uomo, perché sennò ci sono dei lavori che fatti male o non bene, o che non portano, che non, ci sono dei lavori e delle situazioni di lavoro che non nobilitano l'uomo. Ad esempio il posto di lavoro fisso per 40 anni. Potrebbe essere, potrebbe essere, essere. Poi uno alla fine punta tutto su quello che trova allo stadio, punta tutto su quello che non so, trova, non so, in tanti altri posti. Sono d'accordo, ci sono tanti modi per sopravvivere, no? In qualche modo dobbiamo sopravvivere in mezzo alle virtù e ai vizi. E non tutto può essere esattamente perfetto. Però se devo scrivere una canzone sul lavoro, no? Mi piacerebbe scrivere non il posto garantito, no? Non mi interessa quella cosa là. Vorrei dire che ognuno in sé nasce con una sorta di un dono, no? È quello il lavoro che nobilita l'uomo. E molte volte se qualcuno sceglie comunque di farlo, nonostante i tempi, nonostante tutto quello che succede, quella scelta potrebbe essere pesante, sì, no? Sì. Potrebbe non non essere esattamente e immediatamente ripagata. Soprattutto perché un tempo nel mondo del lavoro bisognava entrare molto presto e quindi non si aveva la possibilità di scegliere per se stessi, ma c'era qualcuno che pensava Sì, di solito magari si faceva quello che faceva il padre. Sì, vero. Ma la trovo una cosa, no? Ci sono anche i geni della madre quando si fa un bimbo, no? Sì, certo. E quindi madre più padre, magari viene fuori zio, che cavolo so. Cioè viene fuori un'altra cosa, sì, questo certo, lo dico. Quindi non tutti nascono. No, come... infatti, non tutti nascono per fare quella cosa là. Quindi è un inno a quello che è in ognuno di noi, non solo a neanche chi l'ha scelto, no? Molte volte il lavoro di qualcuno diventa la sua passione, qualcosa che lo porta avanti nel dopo lavoro o in qualche altro, però quella cosa, di quella cosa là sto parlando, di quella cosa che non ti dà chissà che, però probabilmente senza di quella non riesci a fare niente, neanche il lavoro quello istituzionale o chissà che cosa. A proposito di passioni, noi, come tu ben sai Marco, siamo appassionatissimi di dischi e di musica, e allora ti rivolgiamo una domanda, quella classica che facciamo a tutti i nostri ospiti, quindi non c'è niente di, come dire, di sorpresa per i nostri ascoltatori, ma per te, nostro artista ospite, potrebbe esserci una sorpresa, o perlomeno tu la vorrai fare a noi. Quali sono o quali possono essere i 5 dischi che ti piacerebbe far entrare nella tua valigia per partire verso un'isola deserta? Allora, premesso che io mi porterei la chitarra sull'isola deserta. Sì, sì, sgonfiata però. Esatto. Magari, sì, dopo la riproponi, sì. La chitarra. Sì. E allora ci penso in diretta, come ho detto Maurizio. Certamente. Prima non voglio pensarci prima, allora porterei il mio disco. Beh, così giusto, magari, bravo. Okay. Quindi, non fa mai male riascoltarsi. Sì. E poi porterei l'ultimo disco di Dylan che esce, non è ancora l'ultimo disco di Dylan che è uscito, cioè quello che insomma, secondo me è sempre attuale. Il disco del momento di Dylan. Di Dylan, sì, quello che è l'ultimo che è uscito. Quello di Natale. Del momento, sì. L'ultimo è infatti. Sì, quello di Natale, sì. È quello di Natale. Esattamente. E dopodiché porterei, vediamo, i canti di montagna, delle nostre montagne dolomitiche, perché sono una cosa piena di musica, piena di storia, di c'è di tutto in quelle canzoni lì. Poi un CD di musica africana, qualcosa di qualche bravo chitarrista del Mali. Perfetto. E poi l'ultimo disco, premesso che sia l'ultimo, è un disco volante per andarmene dall'isola. Ah, perfetto. Perfetto, è un'idea assolutamente originale, non ne avevamo mai sentito nessuno. No, è la prima volta, è la prima volta. L'unico che vuole uscire dall'isola. Esattamente. Altri ci stavano anche ben volentieri, anzi stavano pensando a organizzare concerti anche su quel posto. Vabbè, allora mi ha fatto veramente piacere conoscere qualcosa di più della sua musica, soprattutto sapere che ascolta ben volentieri anche Dylan, quindi insomma un personaggio che magari sembra così che a tutti piaccia, in realtà bisogna proprio saperlo amare Bob Dylan. È difficile in alcuni momenti. È molto difficile. Non è semplice. Ritornando un momento Marco al mio lavoro, musicalmente tu ami il black in questo pezzo. Sì, molto sì, il black. Ci sono dei fiati meravigliosi di Enrico Gabrielli, ma c'è molto black. Sì, infatti è il pezzo black del disco. E sì, dalla musica africana al soul, quelle cose lì sono un'altra influenza che un po' ho avuto. Il blues stesso è un, perché la musica black lega senza dubbio quello che è il sentire fisico, no? Con quello che è l'idea di musica mentale, di costruzione mentale. Quindi il sentire fisico della musica, sto pensando alla tradizione italiana che sicuramente nelle tarante, sì, in quelle cose lì magari è più fisica, per altre cose insomma magari perde un po', oppure il fisico viene usato per cantare ad alta voce o cose del genere. Nel blues, nella musica black, il fisico è tutt'uno con la voce, è fondamentale, cioè è un insieme perfettamente. Sì, nel blues dove non c'è spazio, nel blues c'è quello che vuoi dire con la tua voce lamentosa, e il resto, quello che può fare la chitarra, è lo spazio fisico che il fisico ha. Quindi sì, quello senza dubbio. In questo caso, propriamente questo caso, nel il mio lavoro, forse si è cercato più idealmente, devo essere sincero, di riportare quello che è un discorso di il mio lavoro a una tradizione black esattamente. Però l'amore c'è per il black, assolutamente. Sì. E questo è sicuramente, come hai detto giustamente te, il pezzo più ambientato, ancorato su quella direzione. Sì. Ok, bene, allora noi proseguiamo con l'ascolto di un altro pezzo tratto sempre dal disco di Marco Iacampo, e noi di Blu Radio Veneto siamo stati anche molto fortunati perché ha accettato l'invito e è venuto qua a cantarlo in carne ed ossa. E quindi la traccia numero 3 si intitola Miracolo Eccezionale, poi torneremo qui in diretta a commentarlo insieme qui dagli studi di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Miracolo eccezionale. Marco Iacampo qui nei nostri studi di Blu Radio Veneto per presentarci il suo disco Miracolo eccezionale, un testo davvero divertente, questo Miracolo eccezionale. Bene, bene, sono contento. Miracolo eccezionale è un testo sì spassoso, perché poi è stato reso anche da Paolo dalle scelte un po' di arrangiamento, sì, musicalmente spassoso. Era un pezzo, anche questo blues, che restava invece più giù, andava su dei toni minori. Invece Paolo ha detto: ma perché non lo lanciamo? Sì, lo pompiamo un pochettino. Sì, in effetti mi ritorna molto utile cantare. Ho bisogno di un miracolo eccezionale con un po' di energia, no? E quindi sì, sì, è un pezzo divertente. Sì, è ben fatto, accattivante. Sì, sì. Tu hai seguito, cioè, il discorso con Paolo, com'è stato il rapporto musicalmente? Tu scrivevi dei pezzi, lui li abbelliva, li ampliava, poi c'era un accordo fra di voi per trovare la giusta partitura, il giusto percorso. Sì, cioè, è stato un lavoro sì, assieme. Allora, quando ho cominciato a scrivere queste cose in italiano, la nostra attenzione si è focalizzata subito sulla voce. Ho capito. Su quanto dovevo migliorare nel canto. Nel canto. E lui mi è stato molto dietro in questa cosa, nel migliorare proprio la pasta della mia voce e il modo in cui cantavo. Mi ha fatto cantare tantissimo. E assieme sì, c'è stato il discorso musicale, e lì un po' sono fatti di fusione e fusione. Ho capito. E di studio, in qua ogni tanto va bene, ogni tanto va male, sono cose normali, ti trovi a andare d'accordo su una cosa, a discutere, poi appena conosciuti, diciamo, io parlavo l'altro giorno, sono contento di una cosa, di essere riuscito a fidarmi di una persona, di Paolo, per farmi guidare e arrivare a questo disco. Avevo fatto sempre abbastanza di testa mia, oppure mi ero un po' affidato a gente sbagliata, ma probabilmente il fatto di non affidarmi in toto era perché annusavo che non andava bene. Cose che non andavano bene, e quindi niente, ho trovato una persona con quale poter anche discutere animatamente in santa pace. Certo, questo è importante. O santa guerra, comunque santa. Dipende, insomma. Poi la pace arriva sempre, in ogni caso. Sì, prima o poi. Appunto. Prima o poi arriva, basta aspettare. Vabbè, e saperla aspettare. Allora, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme con Marco, e visto che hai la tua chitarra già imbracciata, voglio dire, concludiamo con un paio di pezzi come solo tu sai fare. Ok, ci sono. Qual è il prossimo Li pezzo? Li faccio di seguito? No. Ma magari ci fermiamo per ci parlarci fermiamo un secondo. Un attimo, ok, allora comincio con Tornare a casa. Perfetto. Voglio tornare a casa, e non mi importa quanto lunga sia la strada. Tornerò ad essere come il vento che non vedo, ma se chiudo gli occhi sento. Eccolo il sorriso che consola. Torno in una sera qui in città, perso forse in quel giorno di scuola, ma non è importante che sia la verità. Io voglio tornare a casa, e non mi importa quanto lunga sia la strada. Tornerò ad essere come il vento che non vedo, ma se chiudo gli occhi sento. E dentro gli occhi tuoi ho visto tutto, sento ancora un brivido fin qui, ma il fuoco passa e niente resta intatto, e il vuoto non si chiama più così. Ma voglio tornare a casa, e non mi importa quanto lunga sia la strada. E tornerò ad essere come il vento che non vedo, ma se chiudo gli occhi sento. Ognuno ha un posto unico tra i santi, Io l'ho scambiato per la libertà, e all'inferno a fare i conti siamo in tanti, e per fare i conti è giusto essere qua. Voglio tornare a casa, e non mi importa quanto lunga sia la strada, e tornerò ad essere come il vento che non vedo, ma se chiudo gli occhi sento, e tornerò ad essere come il vento che non vedo, ma se chiudo gli occhi sento. Ed ecco Marco Iacampo con questo pezzo, uno dei pezzi tratti appunto dal suo ultimo lavoro, una grande espressività anche con la chitarra, e un brano un po' malinconico. Possiamo... Una ballad, cosa possiamo dire? Una ballad, un sì. Ballad, cosa dici Marco? Una vera ballad? Sì, è nato con un pezzo ballad folk, sì. E anche su questo Paolo Iafelice ci ha messo le mani. Il mio atteggiamento verso questo pezzo è molto chitarristico, come magari avete notato. Certo. Invece Paolo nel disco l'ha proprio scarnificato di tutte le chitarre, e dando lo spazio principale per l'arrangiamento a un piano Rhodes, e poi aggiungendo solo in seconda fase le chitarre. In questo modo l'ha attualizzato. Io poi magari trovandomi con la chitarra lo faccio come questa sera. Sì, abbastanza folk lo fa. Folk, no? Esatto. Lo ritorno folk. Però anche in questa cosa l'idea di Paolo di in qualche modo attualizzarlo è stata forte, ecco. Quindi il piano Rhodes ha dato proprio questo vigore, questa sì, diversità, perché... questo collegamento in modo strano, ha ampliato un discorso che c'era già sotto. Esatto, sì, e poi ha creato lo spazio per la voce. Chiaramente. Che sì. Senza, con batteria, chitarra, incalzante e tutto, non c'era lo spazio della voce. Era comunque un fatto molto tecnico questo. Chiaro. Bene, allora, visto che mancano ancora 7 minuti abbondanti per stare insieme a Marco Iacampo in questa serata di martedì 12 ottobre, e vogliamo ascoltare ancora un'ultima canzone e poi partiamo con i saluti, salutando anche Marco. Sì, una canzone meravigliosa che abbiamo scelto noi della redazione di Non Solo Acustico per un mese e mezzo. Perché? Perché era molto interessante, era molto bella, è una canzone costruita su due note, un accordo semplice. Sì. Nella canzone, cioè nel disco, c'è il piano di Vittorio Cosma e la giovane cantante Irene. Come l'hai conosciuta questa ragazza? Perché anche lei è passata sotto le mani di Paolo Iafelice. Ah, ho capito. E quindi, poi sì, era una ragazza che comunque era del giro, no? Dei musicisti che ho conosciuto lì a Milano, e ha una voce molto, lei è molto giovane, è una voce molto classica e tende a non storpiare niente delle note che fa, è sempre molto dritta e puntuta sulla voce, e mi ricordava un po', forse un modo più classico di cantare, ha un bel timbro, e anche se poi abbiamo un po' lavorato, sì, con gli, certo, effetti su questa voce nel disco, era la cantante giusta per fare i cori femminili. Disco, il pezzo è meraviglioso. Io posso dirti, da farti una considerazione, l'ho trovato molto inglese questo pezzo, non so se sei d'accordo. Ma secondo me è il più radicale di tutti, nel senso che l'italiano è molto fluente, e in questo modo mi sento molto, invece mi sembra molto vicino alle canzoni dei nostri monti. Ah, perfetto. L'hai pensato secondo così? Secondo me potrebbe essere cantato un coro alpino. Ottimo. Provate a immaginarlo. Ah, benissimo, poi eventualmente diamo anche questo testo a qualche coro della zona, e poi proviamoci. Va bene, ok, sono contento. Potrebbe essere una buona idea. Se qualcuno ha carpito il messaggio via etere, può darsi già da fare per contattare Marco Iacampo dopo aver ascoltato questa canzone che si intitola Cavallo Bianco. Esatto. C'è un bel cavallo nero mi aspetta dopo il sogno e mi ricorda che la notte è pronta se ho bisogno, se ho bisogno. C'è un bel cavallo nero che mi attraversa il cielo, mi guarda dritto e ruba un po' del mio respiro, mentre l'ammiro. Ma se sto con te, oh aria in ogni istante. Se sto con te, oh aria, e l'aria è più importante. E c'è una casa e un campo e un bel cavallo bianco. E c'è una casa e un campo e un bel cavallo bianco. C'è un bel cavallo nero che viene dal passato e mi ricorda il posto dove sono nato e mi riporta indietro. C'è un bel cavallo nero, cavalca nel futuro, come confonde quel suo manto e questo scuro. E questo scuro. Ma se sto con te, ho la luce, lo sguardo si spalanca. Se sto con te, ho la luce, la luce che mi manca. E c'è una casa e un campo e un bel cavallo bianco. E c'è una casa e un campo e un bel cavallo bianco. Adesso ci vorrebbe come sempre l'applauso. Siamo in pochi, però voglio dire, da casa staranno applaudendo, anzi ringraziamo anche i nostri ascoltatori che ci hanno fatto compagnia in questa serata. Siamo stati con Marco Iacampo alla presentazione del suo album, davvero straordinario. L'abbiamo tenuto a battesimo anche noi, visto che, come si ricordava poco prima, l'album era nato già in aprile, però poi diciamo che la forza discografica, questa grande spinta, sta avvenendo proprio in questi giorni. Ringraziamo ancora Marco perché è stato qui con la sua splendida chitarra a deliziarci con le sue canzoni, appunto dall'album che si intitola Marco Iacampo, riconoscibile perché nella copertina c'è il suo volto, per cui se andate su internet e siete un po' curiosi, vedete prima Marco Iacampo, poi la copertina del disco e poi deciderete finalmente di prenderlo, perché ne vale proprio, certo, la pena. Certo, sì. Anche perché il primo ascolto aiuta, ma il secondo ascolto, diciamo, migliora la conoscenza, e dopo il terzo ascolto viene da solo. Si compra subito direttamente. Vabbè, abbiamo fatto un po' di pubblicità anche a Marco, e ancora complimenti per il tuo lavoro. E Maurizio, prima di concludere, quali sono i prossimi appuntamenti importanti delle serate di Blu Radio Vento? Dunque, prossimo appuntamento domani, riposo, non ci sarà Rock Wave. Giovedì ci sarà uno speciale dedicato a un tributo ai Queen, curato da Agostino. Ci sarò ancora io, purtroppo sì. Ci sono. Vabbè. E poi la prossima settimana, non mi ricordo proprio il calendario, dovrei interpellare il nostro direttore artistico, sì. Ma avremo un live anche martedì con te. Ah, benissimo, quindi sono a posto, penso che arriverò perlomeno domani a conoscere con chi avremo il piacere di colloquiare martedì prossimo. Ancora grazie a Marco Iacampo. Grazie a voi, grazie Maurizio, grazie a te, Flavio, e grazie anche a Alberto che non c'è questa sera, però è anche attraverso lui che sono arrivato. Sei venuto qua a suonare. E ne approfittiamo, magari succede un po' prima, ma ti facciamo tanti auguri e congratulazioni perché presto sarai anche papà. Hai capito. Una cosa davvero grande. Benissimo, allora grazie ancora Marco, ciao. Allora noi chiudiamo la trasmissione, Maurizio, lasciamo lo spazio a Renato Ferro che viene da Lietarci con un po' di musica di quelle tranquille, voglio dire. Sì, sì. Esattamente. Ecco, heavy metal, hard rock dalle 22:30 fino alle ore 24 qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso, ciao, ci sentiamo presto.